Ehi, ciao Lila, come stai? Ti va tutto bene? Mi basterebbe essere un passo in più da questa città. Non fingere, ma niente va per il verso che deve. Mi basterebbe un passo in più, solo un passo in più. L'Ucraina e la Russia sono impazzite. Gruppi di cinesi incazzati vogliono invadere l'America. Un altro omicidio stupido per le strade mentre tutti si facevano i cazzi. Loro, dai, dai, dai. Quanto costa vivere in Italia? Quanto devi farti il culo per avere una pensione? E se non paghi ti ritrovi Equitalia. Ad un tratto perdi tutto e ti tocca fare il barbone. Bel paese, bei monumenti. Ma com'è che sta nazione non si vive più? È un circolo vizioso, bisogna stare attenti. Non l'ho voluto io, ma l'hai deciso tu. E mangiamo pane e merda tra tossici e drogati, tra mamme sedicenni e tra complotti fra gli stati. Le promesse di un politico corrotto, se il diavolo ti bacia c'è sempre qualcosa sotto. Hai un titolo di studio ma il lavoro non lo trovi. E basta raccontarmi che bisogna studiare, perché se non lo trova quello con il titolo di studio, io che non c'ho voglia, dove cazzo devo andare? Amo l'Italia perché è un paese stupendo, perché non lavoro e non ho uno stipendio, perché ci sono nato ma è stato il più grande errore. Un errore, il più grande errore. Amo l'Italia perché è un paese stupendo, perché non lavoro e non ho uno stipendio, perché ci sono nato ma è stato il più grande errore. Un errore, il più grande errore. Era meglio se facevo l'immigrato, almeno ero sicuro di avere un pasto caldo ogni sera. Invece sono un italiano, mamma che cazzo, non potevi partorirmi a Montenegro, a Ginevra? Invece abito qua, un paesino di merda, dove ho conosciuto solo gente di merda. Impostata di merda, facce di merda. Va bene che puzziamo, ma qua puzza di merda. Questi movimenti disorientano la gente, confondono i ragazzi, rassicurano le vecchiette. Basta una crocetta, imbucare la tua scheda. Ci ripensa l'italiano, ma mica si dispera. Ozia sul divano, si spacca con il calcio. Tra una birra e l'altra non capisce più un cazzo. E cosa ti lamenti il pomeriggio giù al bar? E mafia di qua, e mafia di là. E amo l'Italia perché un paese stupendo, perché non lavoro e non ho uno stipendio, perché ci sono nato ma è stato il più grande errore. Un errore, il più grande errore. Amo l'Italia perché un paese stupendo, perché non lavoro e non ho uno stipendio.